Il vostro peso è di 980 newton e la corda sostiene 400 newton. Quanta forza resta da distribuire su ciascuno dei due appigli?